Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis. Ne parlano il mondo della finanza e delle assicurazioni, ne parla il mondo delle energie rinnovabili, ne parlano i notai e ne parlano gli amministratori pubblici. C'è chi ne parla con terrore e chi con adorazione, come i tanti spiriti anarchici convinti addirittura che rappresenti lo strumento per sottrarre il controllo della valuta e della proprietà agli stati e alle banche centrali. Ma quasi tutti sono convinti che sia destinata a trasformare interi mondi professionali. È la blockchain, la tecnologia informatica, la base del Bitcoin e di tantissime nuove applicazioni che stanno nascendo, a cui abbiamo deciso di dedicare lo speciale Smart City di questo mese. A partire da stasera e per tutta la settimana cercheremo di raccontarvi perché la blockchain promette di completare la transizione verso un'economia di tipo peer-to-peer, dove anche l'ultimo intermediario rimasto, per capirsi l'Airbnb o la Uber o addirittura la banca centrale di turno, viene fondamentalmente estromessa dalla catena del valore. Ma cercheremo di spiegarvi anche quali sono i limiti e gli ostacoli concreti con cui questa visione dovrà confrontarsi. Iniziamo ricordando di che cosa si tratta, che cos'è una blockchain. È un'architettura software, una tecnologia informatica che permette in buona sostanza di costruire dei database che non hanno un proprietario, ma sono diffusi e copossieduti da tutti i membri della comunità di riferimento. In pratica quello che accade è che ogni membro di questa comunità, ogni nodo, possiede una copia del database e ogni volta che avviene una transazione, per esempio uno spostamento di denaro o il passaggio di un bene, questa viene validata da tutti i membri di questa comunità, i quali verificano che questa transazione appunto sia coerente con le regole e con la storia precedente dello stesso database. Insomma, in pratica nella blockchain i dati sono di tutti e di nessuno, tutti li possono vedere, ma nessuno li detiene o li può modificare in via esclusiva. Insomma, la promessa della blockchain è quella di essere la struttura informatica peer-to-peer su cui si fonderà la stessa economia peer-to-peer. E nel caso questo concetto non fosse ancora espresso così sufficientemente chiaro, ecco che vogliamo raccontarvi un esempio concreto. Ci facciamo aiutare in questo da Elena Comelli, giornalista esperta di energia, che su Nova del 24 settembre ha raccontato quello che possiamo considerare un vero e proprio esperimento di economia peer-to-peer in salsa blockchain in corso a Brooklyn e che riguarda naturalmente proprio l'energia. Buonasera, buonasera Elena. Ciao, buonasera. Allora Elena, qual è il problema che si vuole risolvere, tanto per cominciare? Ma guarda, sì, il caso di Brooklyn è proprio un caso di scuola per l'utilizzo della blockchain. In pratica si tratta di trovare una soluzione condivisa a due problemi di fondo. Da un lato c'è un privato che ha deciso di investire su un tetto fotovoltaico e quindi produce energia solare per la sua casa. Dall'altro ci sono dei vicini che magari vorrebbero usufruire di questa energia e però non hanno i soldi per investire in un tetto fotovoltaico. Allora devi sapere che un privato tipicamente quando ha un tetto fotovoltaico sulla testa utilizza al massimo 2/3 di questa energia. E il resto dove va? Va a finire in rete, dove viene pagata abbastanza poco, no? Questo è un po' il tema. Poco, perché le reti non sono delle grandi fan dell'energia prodotta in maniera distribuita. Gli piace di più l'energia centralizzata. Diciamo che comunque il prezzo dell'energia sul mercato dell'energia, al di là di come è prodotta, perché si paga, la cifra è quella, appunto, ed è molto più bassa di quella che l'utente paga quando la preleva dalla rete, no? Quindi conviene autoconsumare. Esatto. Ma non si riesce ad autoconsumare tutto. Assolutamente autoconsumare. Allora, per risolvere questo problema si stanno creando delle microgrid di vicinato. Cioè delle reti? Esatto, in modo tale che i vicini possano usufruire di quell'energia che il privato che ha i pannelli non utilizza. Allora, questi casi sono risolti molto bene dalla blockchain, perché le microgrid non sono un problema, cioè Siemens le fa da tanto tempo o anche altri. Sì, non è un problema tecnico di regolamentazione, per esempio quella cosa che dicevi, cioè di scambiarsi energia fra i vicini, è vietata in Italia, ma non è vietata a Brooklyn. E quindi lì che cosa hanno fatto? Lì hanno fatto, c'è una piccola azienda che si è messa d'accordo appunto con Siemens, ma potrebbe essere un'altra compagnia uguale, l'azienda si chiama LO3, sì. E questa azienda ha deciso di sviluppare delle microgrid con su piattaforma blockchain. Perché le microgrid si possono sempre fare, però poi dopo non si capisce bene come si debba contabilizzare. Certo, come si fa a gestire, cioè come faccio io appunto, esatto, che ho i pannelli fotovoltaici a farmi pagare dai miei vicini di casa per l'energia che prendono dai miei pannelli fotovoltaici. Stringi, questo, esatto, è il problema. E la blockchain quindi risolve questo problema. Fino adesso, diciamo, c'erano delle microgrid fatte in maniera piuttosto artigianale, in cui uno pagava un flat o cose di questo tipo. Invece adesso con la blockchain si può tenere conto di tutte le transazioni in maniera molto precisa, perché è chiaro che il pagamento è il punto, insomma. Va bene, grazie intanto Elena Comelli. Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento domani per la seconda puntata dello speciale sulla blockchain. Buona serata a voi tutti.